Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Morrel era stato colpito al cuore da un terribile ricordo. Il colloquio che aveva sentito fra il signore di Villefort e il dottore la notte in cui morì la signora di Saint-Méran. Gli tornava alla mente: quei sintomi erano gli stessi che avevano preceduto la morte di Barrois. Nello stesso tempo gli sembrava di risentire le parole che Montecristo gli aveva detto. Di qualunque cosa abbiate bisogno venite da me. Io posso molto. Più rapido del pensiero, corse dunque da Faubourg Saint-Honoré agli Champs-Élysées. «Che cosa c'è dunque, Maximilien?» domandò il conte. «Siete pallido e la vostra fronte è madida di sudore». Morrel cadde su una sedia. «Sì», disse, «sono venuto in fretta. Ho bisogno di parlarvi». «Dite pure», rispose Montecristo. «Ascoltate, una sera mi trovavo in un giardino, nascosto dietro un gruppo di alberi. Nessuno immaginava che io potessi essere là. Due persone mi passarono vicino. Permettete che per ora io vi taccia i loro nomi. Parlavano a bassa voce, eppure non persi una sola delle loro parole, tanto mi interessava quel loro dialogo. Era appena morto qualcuno in casa del proprietario del giardino in cui mi trovavo. Una delle due persone di cui ascoltavo il discorso era appunto il padrone del giardino e l'altra un medico. Ora, il primo confidava al secondo i suoi timori e i suoi dolori, poiché questa era la seconda volta in un mese che la morte piombava rapida e imprevista su quella casa che sembrava indicata da qualche angelo sterminatore alla collera di Dio. «E qual era il parere del medico?» domandò Montecristo. Diceva che quella morte non era affatto naturale e che bisognava attribuirla a che cosa? Al veleno. Davvero? Disse Montecristo con quella leggera tosse che nei momenti di grande emozione gli serviva a mascherare sia il rossore, sia il pallore, sia l'attenzione con cui ascoltava. Davvero, Maximilien? Voi avete sentito tali cose? Sì, caro conte, le ho sentite. E il dottore aggiunse che se si fossero rinnovati simili avvenimenti, si sarebbe ritenuto in obbligo di rivolgersi alla giustizia. Montecristo ascoltava con la più grande calma. Ebbene, disse Maximilien, la morte ha colpito una terza volta, e né il padrone di casa né il medico hanno detto nulla. E ora sta forse per colpire una quarta volta. Conte, a che cosa credete che mi obblighi la conoscenza di questo segreto? Mio caro amico, voi dite che un angelo sterminatore sembra indicare questa casa alla collera del Signore. Ebbene, chi vi dice che la vostra supposizione non sia una realtà? Se è la giustizia di Dio e non la collera che passa su quella casa, Maximilien, voltate la testa e lasciatela passare. Chi vi dice che tutto ciò succederà di nuovo? Succede, conte! Gridò Morrel. Ed ecco perché sono corso da voi. Ebbene, che cosa volete che ci faccia, Morrel? Vorreste che avvertissi il procuratore del re? Montecristo articolò queste ultime parole con una chiarezza e un accento così vibrante che Morrel, alzandosi di scatto, gridò: Conte, conte, ma voi sapete di chi vi parlo, non è vero? Sì, mio buon amico. È una famiglia di Atridi. Dio li ha condannati ed essi subiranno la sentenza. Scompariranno tutti come quei fraticelli fabbricati dai bambini con la carta piegata che cadono gli uni dopo gli altri sotto il soffio del loro creatore, ve ne fossero anche 200. 3 mesi fa toccò al signore di Saint-Méran, 2 mesi fa a sua moglie, l'altro giorno a Barrois, oggi toccherà al vecchio Noirtier o alla giovane Valentine. Voi lo sapevate? Gridò Morrel in preda a un terrore tale che Montecristo trasalì. Lui, che sarebbe rimasto impassibile quando anche avesse visto cadere la volta del cielo. Voi lo sapevate e non diceste niente! E che mi importa? Riprese Montecristo alzando le spalle. Conosco forse quella gente. Devo perdere l'uno per salvare l'altro. In fede mia no, poiché fra il colpevole e la vittima non ho alcuna preferenza. Ma io! Gridò Morrel urlando dal dolore. Io l'amo! Voi amate chi? Gridò Montecristo balzando in piedi e afferrando le mani che Morrel alzava, torcendole verso il cielo. L'amo perdutamente, l'amo follemente, l'amo come un uomo che darebbe tutto il suo sangue per risparmiarle una lacrima. Io amo Valentin Villefort, che in questo momento stanno assassinando. Mi capite? L'amo! E chiedo a Dio e a voi come posso salvarla! Disgraziato! Gridò Montecristo torcendosi a sua volta le mani. Disgraziato, tu ami Valentin! Tu ami quella figlia di gente maledetta! Morrel non aveva mai visto una simile espressione, né mai aveva visto uno sguardo così terribile lampeggiare davanti a sé. Il genio del terrore, da lui visto tante volte sia sui campi di battaglia, sia nelle stragi notturne di Algeria, non aveva mai irradiato davanti a lui bagliori più sinistri. Arretrò spaventato. Quanto a Montecristo, dopo quello scatto e quel grido, chiuse un momento gli occhi come abbagliato da lampi interiori e si raccolse in se stesso con tanta forza che il suo petto, gonfio di rabbia, si vedeva a poco placarsi, così come si vedono dopo la burrasca placarsi sotto i raggi del sole i flutti agitati e spumeggianti. Quel silenzio, quel raccoglimento, quella lotta durarono circa 20 secondi. Poi il conte rialzò la pallida fronte. «Orsù», continuò il conte, «basta con il pianto, siate uomo, siate forte, siate pieno di speranza, perché io sono qui e veglio su di voi». Morrel scosse tristemente la testa. «Vi dico di sperare, mi capite?» gridò Montecristo. «Sappiate che non mento e che non mi sbaglio mai. È mezzogiorno, Maximilien. Ringraziate il cielo per essere venuto a mezzogiorno invece di questa sera o domattina. Ascoltate dunque quanto sto per dirvi. Morrel, è mezzogiorno. Se Valentin non è morta a quest'ora, non morirà più». Nel frattempo, Villefort e d'Avrigny si erano precipitati a casa. Valentina era ancora svenuta e il medico aveva esaminato la malata con la massima cura e con un'attenzione particolare legata alla conoscenza del segreto. Villefort, sospeso alle sue labbra e al suo sguardo, aspettava con ansia il risultato dell'esame. Noirtier, più pallido della ragazza, ancora più ansioso di sapere di Villefort stesso, aspettava. Tutto in lui si faceva intelligenza e sensibilità. Infine D'Avrigny si lasciò sfuggire lentamente queste parole. «Vive ancora!» «Ancora!» gridò Villefort. «Oh, dottore! Che terribile parola avete pronunciato!» «Sì!» disse il medico. «Ripeto la mia frase! Vive ancora!» «E ne sono molto sorpreso!» «Ma è salva!» domandò il padre. «Sì! Perché vive!» Nel momento in cui D'Avrigny entrava nella camera di Valentin, accompagnato dal signore di Villefort, un prete italiano, dall'aspetto severo, dalle parole calme e decise, prendeva in affitto, per uso personale, la casa attigua al palazzo abitato dal signor di Villefort. Non si poté sapere in virtù di quale transazione i tre locatari di quella casa sgombrarono 2 ore dopo, ma nel quartiere corse voce che la casa non fosse abbastanza sicura per via delle fondamenta che minacciavano di crollare. La qualcosa, però, non impedì al nuovo locatario di stabilirvisi con il suo modesto mobilio quel giorno stesso verso le 5. L'affitto fu fissato per 3, 6 o 9 anni con il nuovo locatario che per decisione dei proprietari pagò 6 mesi anticipati. Quel nuovo locatario, che come abbiamo detto era italiano, si chiamava Giacomo Busoni. Furono immediatamente chiamati degli operai e la notte stessa i pochi passanti attardatisi per la strada videro con sorpresa i carpentieri e i muratori occupati a puntellare la casa pericolante. Thank you. Alle 8:30 della sera, il salone di Danglars, la galleria attigua a questo e le altre tre sale di quel piano rigurgitavano di una folla profumata, attirata non dalla amicizia, ma da quell'irresistibile bisogno di ritrovarsi nei luoghi dove si presumeva accadessero delle novità. Si procedette alla lettura del contratto che la metà di Parigi presente a quella cerimonia avrebbe poi dovuto convalidare. Il notaio prese solennemente la penna fra le dita, l'alzò sopra la testa e disse: «Signori, ora si sottoscrive il contratto!» Il barone doveva firmare per primo, quindi il rappresentante del signor Cavalcanti padre, poi la baronessa, in seguito i futuri coniugi, come si dice nel pessimo linguaggio burocratico. Il barone prese allora la penna e sottoscrisse. Poi il rappresentante di Cavalcanti padre. La baronessa si avvicinò tenendo sotto braccio la signora di Villefort. «Amica mia», le disse prendendo la penna, «non è spiacevole? Un improvviso incidente sopravvenuto in questa faccenda dell'assassinio e del furto di cui il signor Conte di Montecristo per poco non è rimasto vittima ci priva del piacere di avere il signor di Villefort». «Mio Dio!» esclamò Danglars con lo stesso tono con cui avrebbe detto: «la cosa mi è del tutto indifferente. Credo di essere io la causa involontaria di questa assenza», disse Montecristo avvicinandosi. Andrea drizzò le orecchie. «Vi ricorderete», continuò il conte, «che fu in casa mia che morì quel disgraziato che era venuto per derubarmi e che, uscendo, fu ucciso, a quanto si crede, dal suo complice?» «Sì», disse Danglars. «Ebbene, per recargli soccorso fu spogliato e i suoi abiti furono gettati in un angolo da dove la polizia li raccolse. Ma la polizia, sequestrando l'abito e i calzoni per depositarli al tribunale, aveva dimenticato là il panciotto». Andrea impallidì visibilmente e si avvicinò piano piano alla porta. Vedeva comparire una nube all'orizzonte gravida di tempesta. «Ebbene, oggi è stato ritrovato quel disgraziato panciotto, tutto coperto di sangue e lacerato in direzione del cuore». Le signore mandarono un grido e due o tre di loro si prepararono a svenire. Il mio cameriere, frugando con ribrezzo e precauzione in quella funebre reliquia, ha trovato un foglio in tasca. Era una lettera indirizzata. Indovinate un po' a chi? «A voi, barone». «A me?» gridò Danglars. «Oh, mio Dio, sì, a voi! Sono riuscito a leggere il vostro nome sotto il sangue di cui il foglio era macchiato», rispose Montecristo in mezzo allo stupore generale. «Ma», domandò la signora Danglars, guardando il marito con inquietudine, «in che modo ciò impedisce al signor di Villefort?» «È cosa semplicissima, signora», disse Montecristo. «Quel panciotto e quella lettera erano ciò che si chiama la prova del delitto. Ho inviato l'uno e l'altra al procuratore del re. Capirete, mio caro barone, che la via legale è la più sicura in materia criminale e poteva trattarsi di qualche macchinazione contro di voi». Andrea guardò fissamente Montecristo e si ritirò nella seconda sala. «È possibile», disse Danglars. «Quell'uomo assassinato non era un ex forzato?» «Sì», rispose il conte. «Un ex forzato di nome Caderousse». Danglars impallidì leggermente e Andrea lasciò la seconda sala e raggiunse l'anticamera. «Ma firmate dunque, firmate!» disse Montecristo. «Mi accorgo che il mio racconto ha messo tutti in agitazione e ne domando perdono a voi, signora baronessa, e alla signorina Danglars». La baronessa, che aveva firmato, restituì la penna al notaio. «Signor principe Cavalcanti!» disse il notaio. «Signor principe Cavalcanti, ma dove siete?» «Chiamate il principe! Avvertitelo che tocca a lui firmare!» gridò Danglars ad un cameriere. Nel medesimo istante un ufficiale di gendarmeria, posti due gendarmi alla porta di ciascuna sala, avanzava verso Danglars preceduto da un commissario di polizia cinto della sua sciarpa. «Chi di voi, signore?» domandò il funzionario. «Si chiama Andrea Cavalcanti». Un grido di stupore partì da tutti gli angoli della sala. Si cercò, si interrogò. «Ma chi è dunque questo Andrea Cavalcanti?» domandò Danglar quasi fuori di sé. «Un ex forzato fuggito dal bagno di Tolone. E che delitto ha commesso?» «È accusato», disse il commissario con la sua voce impassibile, «di aver assassinato il nominato Caderus, suo ex compagno di catena, mentre usciva dalla casa del conte di Montecristo». Montecristo gettò uno sguardo intorno a sé. Andrea era scomparso. Pochi momenti dopo la scena avvenuta nelle sale del signor Danglar, il vasto palazzo si era svuotato con una rapidità simile a quella che avrebbe prodotto l'annuncio di un caso di peste o di colera. In pochi minuti, da tutte le porte, da tutte le scale, ognuno si era affrettato ad andarsene, o piuttosto a fuggire. Eugénie, la giovane fidanzata, si era ritirata con aria altera, con il labbro sdegnoso e con il passo di una regina oltraggiata, seguita dalla sua inseparabile amica, la signorina Louise d'Armilly, più pallida e più commossa di lei. Giungendo nella sua camera, Eugénie chiuse la porta dall'interno, mentre Louise si sdraiò su una poltrona. «Che faremo?» domandò Louise. «Che faremo? Ciò che dovevamo fare fra 3 giorni, partire. Così, quantunque non ti sposi più, vuoi sempre... Ascolta, Louise, ho in orrore questa vita di società sempre ordinata, misurata, regolata come un foglio di musica. Ciò che ho sempre desiderato, ambito, voluto, è la vita dell'artista. La vita libera, indipendente, in cui si deve tutto a se stessi, in cui si deve rendere conto solo a se stessi. Restare, e per fare che... Perché si tenti fra un mese di maritarmi nuovamente? A chi? Al signor Debray, forse? Come se ne fece già parola? No, no, Louise, l'avventura di questa sera mi servirà come scusa. Io nulla cercavo, nulla domandavo. Dio mi ha inviato questa sventura, sia la benvenuta. Come sei forte e coraggiosa, disse la bionda e fragile fanciulla alla sua bruna compagna. Non mi conosci dunque ancora? Vediamo, Louise, parliamo delle nostre faccende. La carrozza postale ci aspetta da 3 giorni e l'hai fatta condurre nel luogo convenuto? Sì. Il nostro passaporto? Eccolo. Ed Eugénie, con la sua abituale freddezza, spiegò una carta e lesse: Signor Léon d'Armilly, dell'età di 20 anni, professione artista, capelli neri, occhi neri, viaggia con sua sorella. A meraviglia. In che modo te lo sei procurato? andando dal signore di Montecristo a chiedere lettere di raccomandazione per gli impresari dei teatri di Roma e di Napoli, ho espresso i miei timori di viaggiare come donna. Egli allora promise di procurarmi un passaporto da uomo, e due giorni dopo ho ricevuto questo, al quale ho aggiunto di mia mano: viaggia con sua sorella. Ebbene, disse gaiamente Eugénie, non si tratta che di fare i nostri bauli. Partiremo la sera della firma del contratto invece di partire la sera delle nozze. Ecco tutto. E le due giovani, con prodigiosa alacrità, si misero a sistemare in un baule tutti gli oggetti da viaggio di cui credevano di avere bisogno. Ecco fatto, disse Eugénie. Ora, mentre mi cambio d'abito, tu chiudi la valigia. Allora, con una sveltezza da far intuire che senza dubbio non era la prima volta che vestiva abiti dell'altro sesso, Eugénie calzò gli stivaletti, infilò i pantaloni, si annodò la cravatta, abbottonò fino al collo un panciotto a doppio petto e indossò un soprabito che faceva risaltare la corporatura snella e ben fatta. «Oh, benissimo, benissimo davvero!» disse Louise guardandola con ammirazione. Ma questi bei capelli neri, queste trecce magnifiche che facevano sospirare d'invidia tutte le donne, potranno stare raccolte sotto un cappello da uomo come questo? Lo vedrai, disse Eugénie, e afferrando con la mano sinistra la folta treccia sulla quale arrivavano a stento a riunirsi le sue lunghe dita, con la destra prese un paio di forbici e ben presto l'acciaio stridette in mezzo alla lunga e splendida chioma che cadde tutta intera ai piedi della ragazza che si era rovesciata all'indietro per allontanarla dal soprabito. Quindi, tagliata la treccia superiore, passò a quelle delle tempie e le tagliò senza lasciarsi sfuggire il minimo rimpianto. Anzi, gli occhi brillavano più vivi e allegri sotto le sopracciglia nere come l'ebano. «Oh, quei capelli magnifici!» disse Louise con rammarico. «Non sto 100 volte meglio così?» gridò Eugénie, lisciandosi le sparse ciocche della sua capigliatura divenuta mascolina. «Non mi trovi ancora più bella?» «Oh, sei bella, sempre bella!» gridò Louise. «Ma ora, dove andiamo?» «A Bruxelles, se vuoi. È la frontiera più vicina. Raggiungeremo Bruxelles, Liegi. Rimonteremo il Reno fino a Strasburgo, attraverseremo la Svizzera e scenderemo in Italia per il San Gottardo. Ti va bene così?» «Sì. Ma che cosa guardi?» «Guardo te. Sei così adorabile. Si direbbe che stai per rapirmi.» «È così, Louise. È così.»